Dalla denuncia della violenza che lei ha subito 20 anni fa si è scatenato in Italia un movimento di opinione, chiamiamolo così. Da un lato molto positivo perché attraverso l'hashtag MeToo, anche a me, anche io, molte donne in Italia e nel mondo hanno preso il coraggio necessario per denunciare delle violenze subite sia nell'ambiente televisivo e cinematografico che sia negli ambienti di lavoro in generale. E dall'altro perché la campagna di odio verso le vittime di violenza, anche questa volta si è scatenata e la vittima numero uno è stata proprio lei, la stessa Asia, per cui nei talk show abbiamo assistito a dibattiti incredibili e terrificanti in cui si metteva al centro la sua persona, si criticava il suo stile di vita, insomma quello che si fa di solito con tutte le vittime di violenza a partire dalle aule dei tribunali. Asia Argento ha infatti dichiarato: "Mi sento così attaccata che me ne voglio andare dall'Italia e tornerò solo quando le donne saranno in grado di lottare insieme", e noi le abbiamo scritto dicendole che da oltre un anno il nostro percorso di lotta comune invade le piazze, le strade d'Italia e del mondo, che stiamo scrivendo un piano antiviolenza che vorremmo diventasse realtà e che quindi ci farebbe molto piacere averla con noi in piazza il prossimo 25 novembre a Roma. E lei ci ha risposto positivamente dicendo che ha apprezzato la nostra lettera e che si schiera al nostro fianco, quindi noi dalla sua e lei dalla nostra, tutte insieme verso il 25 novembre. C'è già anche una risposta positiva alla vostra richiesta di disfare le valigie e partecipare insieme alle vostre mobilitazioni. Esatto, speriamo che lei potrà davvero essere in piazza il 25 novembre con noi, come tutte le donne che hanno subito molestie sul lavoro e non solo, che vogliono lottare affinché questo non succeda più. Noi appunto abbiamo lanciato una campagna come l'Una di Meno proprio in questi giorni, che riprende lo slogan Me Too e lo sovverte in We Too, We Together, per dire proprio dobbiamo essere insieme, scendere in piazza, avviare azioni concrete di solidarietà che possano offrire alle donne la possibilità di uscire dal ricatto della violenza, sia sui luoghi di lavoro che nelle famiglie che per la strada. Se la colpevolizzazione delle vittime è un meccanismo tipico del patriarcato, diciamolo pure, c'è stata a campagne come MeToo una reazione anche da parte di alcune donne che dicono forse spiattellare le molestie sui social network tutte insieme ha un effetto controproducente. Voi cosa rispondete? Ma controproducente per chi? Sicuramente per gli uomini che pensano che la cultura dello stupro sia normale, o per quelle donne che hanno il timore di uscire allo scoperto e di ribaltare una situazione, perché ovviamente la violenza è proprio questo, è nella sua capacità di insinuarsi nella nostra vita e quindi di penetrare all'interno della cultura tutta. L'abbiamo visto sia in episodi televisivi che nella realtà di tutti i giorni, che spesso alla palpatina si risponde: "Fatti una risata". Noi le risate non ce le facciamo sulle violenze. E quindi è chiaro che si agisce sia su un piano anche culturale, no? Sociale, per cui si vorrebbe riportare quella che noi definiamo la cultura dello stupro nella sfera della goliardia, quando invece si parla di tutt'altro. Abbiamo visto però sui social anche un fenomeno positivo: alcuni uomini che hanno usato l'hashtag IEV, io l'ho fatto, e che hanno invece denunciato come per leggerezza, per appunto finta goliardia, o approfittando di un ruolo di potere, anche loro si sono lasciati andare, diciamo così, a degli atteggiamenti poco consoni che si avvicinano alle molestie o lo sono state davvero. Quindi c'è una forma di riflessione maschile che sta cominciando? Ma certo, le manifestazioni di Non Una di Meno sono state piene di uomini che si interrogano sul loro essere maschi in questo mondo e su quanto subiscono e quanto mettono in atto atteggiamenti di violenza maschile e patriarcale. È una violenza sociale, strutturale, non è emergenziale, quindi ci riguarda tutte e tutti. Per cui ben venga la riflessione degli uomini, è proprio questo che rende la dimensione di quanto il cammino lungo un anno, e speriamo ancora più lungo di Non Una di Meno, sia stato efficace. Si va verso appunto la manifestazione nazionale del 25 novembre, come procedono i preparativi? Alla grandissima, siamo molto entusiaste perché l'anno scorso è stata una giornata straordinaria con oltre 200.000 persone a Roma. Siamo forti di ben 5 assemblee nazionali che hanno portato tanta partecipazione, oltre 30 e più assemblee territoriali in tutta Italia. Inoltre stiamo finendo di scrivere il nostro piano, siamo proprio alle ultime battute, il 25 sarà pubblico, lo lanceremo pubblicamente, sarà consultabile da chiunque sul nostro sito e quindi quello che ci stiamo dicendo è in questo anno molte cose non sono cambiate, le denunce di Asia Argento dimostrano che il clima culturale è ancora violento, sociale ed economico anche sulle donne, ma noi abbiamo un piano nel vero senso della parola e il 25 novembre saremo tutte in piazza per portarlo e presentarlo.